bene, buongiorno a tutti. Allora, l'altra volta stavamo considerando il secondo capitoletto a cui avevamo dato, non mi ricordo più qual è, l'accidente di niente. E vi devo dare la notizia che forse il patto in francese non lo ripotrò più leggere. Perché non facciamo in tempo, adesso vediamo. Dovrei dire che sono in traduzione, mi piacerebbe però leggere. Vediamo un po'. Comunque, questi testi lo riassumo in translation, tout suite, in modo tale che lo ricordiate, ricorderete che... Ah, ve lo leggo, quindi è proprio la riassumo. Lo rimetto, lo traduco, quindi prendete il passo che comincia «Ce n'est pas certe, je ne savais que j'ai matta au gattine le moins du monde», l'amore non è forse che la propagazione di quelle movimenti, quei movimenti che in seguito all'emozione scuotono l'animo. Certuni avevano scosso la mia anima interamente quando Albertino aveva parlato a Valdec di Mademoiselle Lanteuil. Ma erano adesso sempre, io non amavo più Albertino, perché non mi restava più niente della sofferenza che avevo avuto nel treno a Valbec, apprendendo quale fosse stata l'adolescente di Albertine, con visite forse a Montjurin. Tutto ciò gli avevo pensato per troppo tempo e adesso era guarito. Ma a tratti certi modi di parlare ad Albertine mi facevano supporre, non so perché, che ella avesse dovuto ricevere nella sua vita ancora così breve molti complimenti, dichiarazioni, e li avesse ricevuti con piacere, cioè con sensualità. Così diceva, a proposito di qualsiasi cosa, è vero, è proprio vero. Certo, se avesse detto come uno dette, è proprio vera quella grossa bugia lì, non me ne sarei preoccupato, perché la ridicolaggine stessa della formula si sarebbe spiegata con una stupida banalità di cervello femminile. Ma la sua aria interrogativa, è vero, dava da una parte la strana impressione di una creatura che non può rendersi conto da sola e che chiama la vostra testimonianza come se non possedesse lei le stesse facoltà vostre, le dicevano. Siamo partiti ormai da un'ora, oppure piove, e lei chiedeva, è vero? Sventuatamente, d'altra parte, questa mancanza di facilità a rendersi conto da sola dei fenomeni esterni non doveva essere la vera origine di è vero, è proprio vero. Sembrava piuttosto che quelle parole fossero state fin dagli anni primi risposte a. Voi sapete che non ho mai trovato nessuna così graziosa come voi. Voi sapete che ho un grande amore per voi, che sono in uno stato di eccitazione terribile. Affermazioni alle quali rispondevano con modestia civettualmente consenziente quei «è vero, è proprio vero», formule che non servivano più ad Albertine con me che a rispondere con una domanda a un'affermazione del genere. Avete dormito più di un'ora, è vero? Allora, la prima parte l'avevamo già considerata la volta scorsa e riguardava l'idea che Proust ha che l'amore sia fondato sul nulla, sia fondato su dei movimenti è che nella loro propagazione e riescono a produrre l'amore. E vi parlavo appunto della serata, che so, a Capri, sto immaginando delle cose da cartolina illustrata, una serata a Capri sotto la luna, o che ne so, di un bel viaggio d'estate, il calore dell'estate che accende i sensi, no? E allora l'amore è una conseguenza di questo. Ma non è nient'altro che fondato sul nulla. Infatti noi sappiamo molto bene, per esempio, che in mente in questo momento che esistono amori che nascono d'estate, che sono perfetti e tollerabili sulla spiaggia, diciamo così, d'estate, ma poi tornati in città uno gloriosamente li dimentica e pensa, dice, vabbè, ma io dovevo fare una cosa di questo genere. Cerchiamo di vedere un pochino possibilmente puntuale. Questo l'abbiamo già visto. E lui dice che non amava più Albertine. Perché non amava più Albertine? Perché non soffriva più. Attenzione, perché non soffriva più. E dice che quando era Valvecchia aveva preso la vita di Albertina adolescente da lesbica, perché frequentava una lesbica, questo gli aveva prodotto un desiderio straordinario, il fatto che avesse queste pratiche omosessuali, aveva prodotto un desiderio. Ma adesso, con il tempo, questa è una cosa bellissima, questo era passato perché, dice, l'amore, e questa era la frase su cui eravamo fermi, se non sbaglio, l'ultimo volta, l'amore, a forza di pensarci, a forza di soffrire, uno alla fine non soffre più. Perché tutto finisce, Cioè, nel 24esimo libro, mi ricordo in questo momento, mi è venuto una specie di lampo dell'Iliade di Omero, si parla di Niobe che aveva perduto 24 figli. Sapete che nella mitologia, quando si muore sempre in proporzioni, no, gigantesche, ormai che perdi tutti i suoi figli. Cosa aveva fatto avendo perso 24 figli? Aveva pianto, e a un certo momento aveva messo in piaccia. Nel senso che, quando si sta dietro, usiamo questa espressione, a un dolore, ci si sta per un giorno, un mese, un anno, e poi non c'è niente da fare. E poi il dolore se ne va. E noi ci sentiamo, come dire, traditi da noi stessi, dalla vita, ma il dolore se ne va. Questo è il punto sostanziale. Ma quando se ne va il dolore, d'amore, se ne va anche l'amore. Per cui lui non si sente più attratto. Attenzione. In tutto questo racconto che stiamo per leggere, voi vedrete che c'è questa situazione particolare. Il narratore crede di non essere più innamorato di Albertina. Come vi ho detto, il fatto che Albertina si innamora di lui è totalmente irrilevante. Nel senso, uno, che Albertina non si esprime. Due, che al narratore non importa nulla che si esprime, perché è la sua ossessione, capite il punto? È la sua personale ossessione che conta, non conta il punto di vista dell'altro. Benissimo, quello che sa è che finché è geloso di Albertina, finché soffre per Albertina, l'ama. Quando non è più geloso, non l'ama più. Finché c'è gelosia, c'è amore. Se non c'è più gelosia, ed è possibile amare in assenza di gelosia? No, nel mondo di morto. Se tu ami, tieni alla persona in un modo assoluto, e il fatto che tu non tenga più in modo assoluto vuol dire che non ami più. Per cui, dice Ponsel, infallibile cartina di Tornasole, sapere se noi amiamo ancora una persona con cui siamo in relazione. Cioè, sapere se l'assenza di questa persona ci può turbare. Se ci turba, c'è la possibilità che abbiamo ancora. Ma se non ci turba, l'amore non c'è più, nonostante quello che noi pensiamo. Allora, veniamo adesso a questa frase che viene detta. Questa frase che viene detta è una frase, è una domanda, per la verità, piena di scioccaggine, ingenuità o civetteria. Albertini chiede, è vero, a proposito di tutto. Allora, il narratore dice, questo è vero, poteva avere due spiegazioni. O che Albertini fosse sciocca e non si fidasse di se stessa, e quindi su qualsiasi cosa doveva avere la conferma dell'interlocutore. E se fosse stato così, io non mi sarei preoccupato. Sembrerebbe di poter dire, ma allora forse non avrebbe più avuto un interesse amoroso al Bertin, no? Scoprendosi come sciocca. No, perché, ripeto, nell'ottica amorosa quotidiana noi ci inventiamo tutto dell'altro. Non ha alcuna importanza che l'altro sia sciocco o no. No? Siamo noi che decidiamo di amare. Quindi non avrebbe avuto una grossa correzione di rotta, non avrebbe impresso una correzione di rotta. Se avesse fatto una cosa di questo genere, se avesse risposto, è vero, per esempio, a una domanda, piove da un'ora. Siamo partiti da un'ora, piove, e lei avesse detto, è vero, sarebbe stata semplicemente scena. Ma questo non avrebbe cambiato la situazione. Il problema è che questo è vero, è proprio vero, poteva essere la risposta a questo tipo di situazione. Se qualcuno le facesse dei complimenti, complimenti amorosi, tipo, siete la donna più bella che abbia mai visto. Sono in uno stato di eccitazione terribile quando penso a voi. E lei, in modo civettuolo, come per avere una conferma, e quindi una carezza narcisistica, per così dire, no? In modo molto femminile, diciamo così, eh? Avesse in questo caso detto, è vero. Ma, aggiunge il narratore, questo tipo di è vero lo usava anche con me, ma ormai lo usava semplicemente per cose banali. Lo usava nel caso che io avessi detto avete dormito voi a Bertin per più di un'ora, e allora lei avrebbe risposto, è vero. Allora, quelle è vero sensuale, mansioso, complice, appartiene solo ad Albertini e al suo passato. E i tre casi sono due. O è un vezzo scemo, o, e qui non lo preoccupa, oppure è qualcosa di gravissimo. Mostra che lei aveva ricevuto complimenti da uomini e che quelle vero era solo la risposta dei complimenti che aveva, delle offerte erotiche. Quando noi scopriamo che l'oggetto nostro d'amore è stato coinvolto in storie d'amore passate con altre persone, ci turbiamo. È praticamente impossibile, per molti è impossibile, sottrarsi a una sorta di gelosia retroattiva. Ma qui non è solo questione di gelosia retroattiva, qui fa pensare che Albertine sia ancora impegolata in una femminilità insidiosa e cerchi di piacere agli uomini, cerchi di piacere ad altri. Quindi il fatto che il narratore la tenga lì prigioniera non basta, perché lei con il suo pensiero va altrove. È chiaro? Questo è abbastanza semplice, mentre è molto difficile. Tra i più difficili è il capitoletto che adesso propongo alla vostra attenzione ed è di bellezza mirabile. Allora, vi faccio questo test. Chi capisce la bellezza di questo capitoletto si ritenga legittimato in cuor suo a seguire questo corso. Chi per conto mostrasse di non capirlo, pensi che esistono. Esiste il laterizio, esiste l'industria del cemento, esistono tante altre cose a cui forse puoi indicare più proficuamente su. Ma quello che sto per lettere è da letterati finiti. Quindi non vi meravigliate, non vi meravigliate se avete una difficoltà a capire. Ecco, diciamo così. Sappiate che è molto difficile capire la bellezza di questo passo. Questo passo meraviglioso, però, ve lo annuncio quantomeno nel titolo. Viene anzitutto uno, due, dopo tre pagine, dopo appena tre pagine, e comincia il capoverso con Quand à la raison de mon désir de rester. L'avete trovato? Numero 18. Però noi andiamo giù di 10-12 righe e il capitoletto comincia con l'espressione si elle n'était pas d'excellente humeur. L'avete trovato? Perfetto. Si elle n'était pas d'excellente humeur. Trovato? Come no? Avete trovato il capoverso? Quand à la raison de mon désir il capoverso. Andate giù di 12-13 righe, non so quanto sia, e a un certo momento troverete questo. Basta, dovete averlo trovato. L'ha trovato, eh. Oh. Titolo del capitoletto. Titolo del capitoletto. È un titolo doppio, perché tratta di due cose. Vi ripeto, è un luogo di arte assoluta, è poco nota, eh? Cioè il Porziano non nota una bellezza di questo passo. Titolo del capitoletto. Meglio non sapere. Seconda parte. Modificazioni operate sul corpo immobile dal mondo esterno. La prima cosa, ve l'annuncio, mi seguite? Dal mondo esterno. Operate sul corpo immobile dal mondo esterno. La prima cosa da dire è la seguente. È la seguente. Se voi avete un oggetto d'amore, fategli poche domande. Questo è un punto sostanziale. Ma anche se gli fate poche domande, ci sarà sempre qualche incidente nella vostra vita psichica per cui vi viene voglia di fare una domanda, per voi sarà la peggio. Sono stato chiaro? Sorvegliate poco, non guardate le lettere. Mail al tempo di post non credo ci fosse per me. Mai non vi cada l'occhio su nulla, ma anche con queste accortezze vi capiterà qualche cacchiolo è un eufemismo che avete capito cosa sostituisce il pensiero che comincerà a distruggervi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è questa situazione. Il narratore sta in casa. Albertine non c'è, guardate bene, sentite me. Albertine non c'è, è immobile e ha però dalle variazioni climatiche, qui è la spiritezza, che percepisce da fuori, perché spero che non ci sia nessuno di voi che mi dica una cosa del genere, ma come? Ma aveva solo da una vera di me. No, no. Se dite una cosa del genere, chiudete Proust, c'è un cantiere qui vicino, ho visto, cerca giovani dai 20 ai 23 anni. Quindi, se non capite la parola ormai d'ordine sarà cantiere. Quindi, ancorché se ne stia tappato in casa, le variazioni climatiche, questi sono giorni tra l'altro di variazioni climatiche, no? O notevoli, considerevoli, eravamo caldo pochi giorni fa, ecco. Mi fa venire in mente che ho sfoderato un giubbotto con un collo di pelliccia di cui ero molto fiero, ero colbatamente proceso. Ma ho aspettato questa variazione climatica per mettermelo e mi fa molto bene. Ma via, mi stavo pensando a me. non lo porto all'università, naturalmente non posso, però è molto bello, lo studio. Niente, non c'è stato nulla, è una piccola divagazione. Allora, ve lo leggo in francese? Beh, questo si può, è talmente bello. Facciamo così, ve lo leggo in francese e vi faccio la traduzione. Allora, si è detto il padre se la noce meurt, je pensais que je lui faisais manquer ou remettre un projet. La réalité n'est jamais qu'une amorce, un inconnu, sur la voie duquel nous ne pouvons aller bien loin. Il vaut mieux ne pas savoir. Ricordatevi questo, ragazzi, deve essere il motto della vostra vita sentimentale ora e coniugale poi. Ricordate, questa è la capolletta. Vaut mieux, ripetiamo, vaut mieux ne pas savoir. Un'altra volta, vaut mieux ne pas savoir. Balzi le moins possible. Ne pas fournir à la jalousie le moindre détail concret. Malheureusement, à défaut de la vie extérieure, des incidents aussi sont amenés par la vie intérieure. À défaut de promenades albertines, les hasards rencontrés dans les réflexions que je faisais seul me fournissaient parfois de ce petit fragment de réel qui attire à eux, à la façon d'un aimant, un peu d'inconnu qui, dès lors, devient douloureux. On a beau vivre sous l'équivalent d'une cloche pneumatique, les associations d'idées, les souvenirs continuent à jouer, mais ces heures internes ne se produisaient pas tout de suite. À peine Albertine était-elle partie pour sa promenade que j'étais vivifié, fût-ce pour quelques instants, par les exaltantes vertus de la solitude. Je prenais ma part des plaisirs de la journée commençante. Le désir arbitraire, la velléité capricieuse et purement mienne de le goûter n'eût pas suffi à le mettre à portée de moi si le temps spécial qu'il faisait ne m'en avait non pas seulement évoqué les images passées, mais affirmé la réalité actuelle, immédiatement accessible à tous les hommes qu'une circonstance contingente et par conséquent négligeable ne forçait pas à rester chez eux. C'est plus qu'il y a pour le monde. C'est comme un concert, sentire l'invenzione. Sentite come funziona, eh? Sentire un'invenzione di ritmo diverso. Certains beaux jours, il faisait si froid, on était en si large communication avec la rue, qu'il semblait qu'on eût dit joint le mur de la maison, et chaque fois qu'on passait le tramway, son timbre ressonnait comme eût fait un couteau d'argent frappant une maison de verre. Mais c'était surtout à moi que j'entendais avec ivresse son nouveau rendu par le violon intérieur. Ses cordes sont serrées ou détendues par de simples différences de la température, de la lumière extérieure. Un autre être, instrument que l'uniformité de l'habitude a rendu silencieux, le chant né de ses écarts, de ses variations, source de toute musique. Le temps il fait certains jours, nous fait aussitôt passer d'une note à une autre. Nous retrouvons l'air oublié dont nous aurions pu deviner la nécessité mathématique et que, pendant le premier instant, nous chantons sans le reconnaître. Seules ces modifications internes, bien que venues du dehors, renouvelaient pour moi le monde extérieur. Des portes de communication depuis longtemps condamnées se rouvrir dans mon cerveau. La vie de certaines villes, la gaieté de certaines promenades comprenez en moi leur place. Frémissant tout entier autour de la corde vibrante, j'aurais sacrifié ma vie d'autrefois et ma vie à venir, passée à la gomme effacée de l'habitude, pour cet état si particulier. Traduction. Se lei, avvertì naturalmente, se lei era di non eccellente umore, io pensavo che le facevo fallire o dilazionare un suo piano. La realtà non è mai che un'esca verso uno sconosciuto, sulla via del quale non possiamo andare molto lontano. Meglio non sapere niente, pensare il meno possibile, non fornire alla gelosia il minimo dettaglio concreto. Sventuratamente, in mancanza della vita esterna, degli incidenti sono ugualmente provocati dalla vita interiore. In mancanza delle passeggiate di Albertine, i casi incontrati nelle riflessioni che facevo da solo mi fornivano talvolta di quei piccoli frammenti di realtà che attirano a sé, al modo di una calamita, un po' di ignoto che da allora diventa doloroso. Si ha un bel vivere sotto l'equivalente di una campana di vetro. Le associazioni di idee e i ricordi continuano a lavorare, ma quegli urti interni non si producevano subito. Appena Albertina era partita, era uscita per la sua passeggiata, io mi sentivo vivificato. Vivificato. Sia pure per qualche istante dalle esaltanti virtù della solitudine. Partecipavo ai piaceri della giornata che iniziava. Il desiderio arbitrario, la velleità capricciosa, e soltanto mia, di gustarli, non sarebbe bastata mettere alla mia portata se il tempo speciale che faceva non mi avesse non soltanto evocato immagini passate, ma affermato la realtà presente, immediatamente accessibile a tutti gli uomini che una circostanza contingente e in conseguenza trascurabile non portava a rimanere a casa loro. Certe belle giornate. Faceva così freddo, si era in così larga comunicazione con la strada, sembrava che avessero disgiunto i muri. E ogni volta, i muri della casa, e ogni volta che passava il tram, il suo campanellino risuonava come avrebbe fatto un coltello d'argento colpendo una casa di vetro. Ma era soprattutto in me che sentivo con ebbrezza un suono nuovo emesso dal violino interiore. Le sue corde sono strette o allentate da semplici differenze della temperatura, della luce esterna. Nel nostro essere, strumento che l'uniformità dell'abitudine ha reso silenzioso, il canto nasce da questi scarti, da queste variazioni, fonte di ogni musica. Il tempo che fa certi giorni ci fa subito passare da una nota a un'altra. Ritroviamo allora l'aria dimenticata di cui avremmo potuto indovinare la necessità matematica e che, tuttavia, durante i primi momenti noi cantiamo senza riconoscerla. Solo queste modificazioni interne, sebbene venute dal di fuori, rinnovavano per me il mondo esterno. Porte di comunicazione da molto tempo inchiodate si riaprivano nel mio cervello. La vita di certe città, l'allegria di certe passeggiate riprendevano in me il loro posto, fremendo interamente. Intorno alla corda vibrante avrei sacrificato la mia vita ad un tempo e la mia vita a venire, ormai passata con la gomma da cancellare per questo stato così particolare. Cantiere. Allora, cominciamo le vedere. Quando abbiamo a che fare con un amato, il problema del suo cattivo o buon umore è un problema molto importante. Perché se ci ha rovinato la giornata. Non solo, ma che ha un cattivo umore. Possiamo pensare che il cattivo umore ce l'ha perché aveva qualche piano, qualche progetto, e noi con i nostri piani gliel'abbiamo fatto fallire. E forse c'era un incontro al quale teneva assai più che all'incontro con noi. E quindi quando vedeva che lei non era di eccellente umore, lui pensa che aveva forse fallito, andiamo al cinema. Ma lei forse voleva andare altrove, voleva incontrare altre persone, solo che non poteva dirlo. È come se da questo momento in poi noi sentissimo che il narratore è separato per sempre da Albertine, da tutte, da un mucchio di cose che lei non vuole e non può confessare. La realtà, quella che noi abbiamo intorno, è soltanto un'esca verso l'ignoto. Un'esca verso l'ignoto. Cioè, se tu guardi un fatterello della realtà, come si è pettinata la tua bella, ma come mai si è pettinata così bene? Eppure quando ti ha visto l'altro giorno non era pettinata in questo modo. Forse hai in mente qualcun altro diverso da te, no? Però tu non sei in grado di saperlo. La realtà è un'esca verso l'ignoto, però noi non siamo in grado di andare su questa strada d'ignoto, perché possiamo fare delle congetture che sono assolutamente sbagliate. È meglio non sapere. La frase da scriversi a capo del letto: il vaut mieux ne pas savoir. Pensare il meno possibile. Però dice, anche in questo caso, anche quando uno pensa poco e non fa domande sulla vita esteriore, non guarda il telefonino, qui misteriosamente non parla comunque del telefonino, ma insomma, non guarda gli sms che arrivano sul telefonino. Avrebbe fatto Proust, secondo voi, il narratore, avrebbe guardato i messaggi, ma sono una cosa spaventosa, io non guardo mai, di persone a me che mi capita, devo dire, non farei proprio. Ma quando buona il telefonino non sia mio, mi metto alla stessa distanza dalla quale sto dal bancomat quando c'è qualcuno davanti a me, che non bisogna guardare il PIN, no? Mi metto lontano perché non voglio avere a che fare con la segretezza, la privatezza delle persone, no? Tuttavia ci sono dei piccoli frammenti di realtà che trascinano un pezzo di ignoto, guardate come detto bene. Ci capita, anche senza pensare, anche senza voler sapere, che dei piccoli frammenti di realtà, perché si è messa quel vestito? Che ci portano sulla via dell'ignoto, ma noi su quella via non possiamo andarci, possiamo soltanto temere qualcosa, possiamo soltanto pensare. E allora, secondo Proust, se temiamo, si accende il desiderio. L'amore va di pari passo con la gelosia e con la paura. Ripeto, la nostra funzione, di pari passo con la gelosia e la paura. Benissimo. Però, e qui la seconda parte, quando lei va via, attenzione, lui si sente bene. E perché si sente bene? Perché si riappropria di se stesso. Perché smetti di soffrire. E starei per dire che quando si vedono, ci pensavo per altri motivi, conosco un ragazzo, giovane, più giovane della nostra età, che sta con una ragazza, lui bello e lei bella. Lui manca di personalità in un modo quasi conturbato. Un ragazzo non stupido, è un fulmine di guerra. Sta incollato questa ragazza come un francobollo dannata proprio. Qual è il motivo? È perché si sente vivere soltanto in questa sorta di simbiosi. Ma la simbiosi è ovviamente ovviamente nemica di una comunicazione. La simbiosi significa essere espropriati di sé. Il caso assai più comune è quello di persone che abbiano personalità, e il narratore naturalmente ha una grossa personalità, anche se non riusciamo a capire, ed è questo molto fascinoso, come sia la personalità del narratore, per cui quando lei se ne va, lui sospira di sollievo, respira, perché è libero. Guardate bene, riflettiamo. In realtà lei può, uscendo dalla casa, trovare un uomo, una donna, come vedremo, perché lui teme le donne, e tradirla. Sì, ma lui non lo saprà, lui non lo sa. Il problema è quando qualcuno ci porta a sapere, no? Ho sempre sostenuto che non bisogna far soffrire la persona che può soffrire. Ma io potrei essere stato un assassino di 5 minorenni, ma in casa mia non l'avrò mai saputo. La mia curiosità sarebbe stata quella di farlo sapere, no? Lei se ne va e lui non soffre più. Certo che potrà fare cose assolutamente dissolute, perché lui è la dissolutezza di Albertini che teme, però lui non lo sa, e quindi lì per lì è sollevato. E si trova in una strana condizione, in una condizione per cui, rimasto solo, è come se fosse nell'ombelico del mondo, al centro del mondo, chiuso in casa. Il carcerato se n'è andato per la sua ora d'aria, mi seguite? E lui, il carceriere, è rimasto in galera. Cos'è questa galera? È questo appartamento bellissimo, al terzo, quarto piano, di una casa di Parigi. Tutto intorno la città. La città nella fattispecie invernale. Ed è mattina e lui sente l'ebbrezza della giornata che nasce. Ora, quello che è fascinoso è che lui in realtà di lì non si muove, quindi la giornata nasce, ma nasce fuori dalle finestre. Ma anche se nasce fuori dalle finestre, lui comunque sente che sta con se stesso. Diciamo io lo commentavo. Anche le persone che amano di più dopo la fine di un rapporto sentimentale, accanto ai dolori lancinanti, spaventosi che tutti conosciamo, abbiamo in certi momenti, un senso di straordinaria libertà. Libertà vuol cercando che si cara, come sa chi per lei è vita rifiuta. Improvvisamente ci sentiamo liberi. Prima eravamo legati da un ritmo di cose, telefonate, incontri, impegni, persone da frequentare, e improvvisamente siamo soli con le nostre mani, con noi stessi. Questa è la sensazione che viene raccontata. La giornata sta per cominciare e a questo punto lui, al centro del mondo, rimanendo immobile, subisce questa meravigliosa situazione. Di fuori ci sono delle variazioni del tempo. Queste variazioni del tempo hanno un effetto. Il primo è quello di far ricordare altri momenti del passato in cui c'era un tempo analogo. Prendiamo le variazioni per capirci che ci sono stati in questi giorni di tempo, no? Abbiamo certamente ricordato, che lo volessimo o no, dei momenti in questo inverno che non ha fatto freddo, dei momenti in cui aveva fatto freddo, pioggia. Ma la variazione di tempo non solo fa ricordare il passato, ma fa sentire il presente. Guardate, io prima ho attraversato la nostra piazzetta, c'era il sole, no? C'era il sole. Qui siamo chiusi, sono chiuse le finestre, sono chiuse le finestre. Io posso vedere abbastanza bene che non c'è più il sole, è vero? Non c'è più il sole. I tempi sono incerti, il clima è incerto in questi giorni. grigio, è grigio. Con molta probabilità, siccome prima faceva sempre freddino, ma adesso farà un pochino più freddino. Quindi io percepisco la vita di fuori, anche senza alcun bisogno di aprire le finestre. Io è come se la vita di fuori la sentissi, e tanto più sono fermo qui chiuso in quest'aula, tanto più mi rendo conto che c'è un mondo esterno fatto di luci che stanno digradando, di una temperatura che sta probabilmente diminuendo. Qui siamo, nel caso del narratore, in una splendida mattina d'inverno a Parigi. Faceva così freddo e si era in così larga comunicazione con la strada. Guardate questa bellissima frase. Cosa vuol dire? Quando fa molto freddo, cercate di seguire queste finestre, quando fa molto freddo l'aria è pura, vero? L'aria è cristallina, no? E quindi è come se i contatti con l'esterno fossero superiori. Tutto diversa la condizione, per esempio, di giornate torpide, quando soffia lo scirocco, bollenti, calde, con la sabbia, allora la comunicazione con l'esterno non c'è. Ma vi sarà accaduto la mattina quando vi svegliate in una bella giornata d'inverno, quando aprite le tapparelle e vedete dalle righe di luce che ci sono di fuori voi, senza aprire la finestra, avvertite il mondo esterno, il fermento del mondo esterno che già si è svegliato prima di voi, avvertite questa temperatura, e questa temperatura che è di fuori con le sue variazioni, è come se vi mettesse in contatto col mondo esterno, sebbene voi restiate lì nel centro della vostra camera da letto. Tutti sappiamo, aprendo la finestra al mattino, e tutti apriamo la finestra al mattino, che c'è un mondo di fuori, e sappiamo, se nevica ovviamente, ma quello è molto più facile, ma il freddo, il caldo che farà. Allora, in questo clima cristallino, freddo, quindi il contatto con la strada sembra superiore, e quando passa il tram ha la sua campanella, questa campanella risuona come, sentite come funzionano bene queste immagini, funziona come questa campanella, tin, tin, tin, come un coltello d'argento su un bicchiere. Questo è un tipico modulo stilistico prustiano, quello di accostare delle immagini per associazione. Ha semplicemente parlato del campanello del tram. Dobbiamo pensare intensamente a un campanello di tram, se ne abbiamo qualcuno nella mente, non è difficile. Questo campanello gli fa venire in mente una situazione completamente diversa, quella del coltello, un coltello d'argento. E se non è d'argento? Ma argento si dà più l'idea della lucentezza del fuoco. Ecco perché il coltello è d'argento. Mi seguite? Il coltello che picchia su un vetro. Vi faccio notare che con la parola vetro siamo anche nel clima cristallino di fuoco. Quindi se andiamo insieme, il vetro del bicchiere, l'argento del coltello, il suono del tram, il freddo di fuori, vedete che ci sono tante sfumature che stanno insieme. Questi suoni, prodotti dalle variazioni di temperatura, questi suoni unite, scusate, alle variazioni di temperatura esteriore, mi fanno suonare un violino che sento dentro. Ma come, hai un violino dentro? E certamente. Ho un violino dentro, nel senso che io sono uno strumento musicale che suona il mondo esterno con le sue luci. Quando io vado al mare, d'estate, non è che mi limito a prendere il sole e il caldo, è come se questo strumento musicale che io sono lo suonasse il calore, aggiungerò gli odori. Se siete al mare d'estate, la luce calda del mezzogiorno vi suonerà questo violino interiore, ma il violino interiore che avete dentro suona anche per gli odori del mare, l'odore della salsedine, e d'estate l'odore felice, fecondo delle fritture di pesce verso l'ora di pranzo, l'odore che so delle sulla spiaggia, come si chiama? Le creme solari, le creme solari, ma come no, certamente, le creme solari, voi sentite questo impatto meraviglioso di estate, sentite, di vacanza, non fate un cazzo, di pesce, così, di pesce, di riposo, di amori possibili, e diciamo le cose come stanno, di amori, di creme solari, di belle sconosciute, li sto rivolgendomi naturalmente ai pochi uomini, perché gli altri poco interesseranno, le belle sconosciute, completamente inguantate nelle loro creme. Poi ancora, no, ma una cosa volevo dirvi, un bucumpra, un nero che va vendendo, come si chiamano? Le cose, dica su, Cripio! Le cose, di con la quelle che mangiano, con la mantellata, le cose, le cocco anche, cocco, questo va bene, funziona, no, la mantellata fa male il paramento, che fa male, le bombe, l'olino interiore si muove a seguito di tutto questo, e così qui nella casa di Parigi c'è freddo, queste variazioni di luce, di temperatura fanno muovere il nostro violino interiore, eh? E allora il mondo esterno, come dire, è intuito e visto attraverso queste variazioni. Io sono in contatto con il mondo esterno proprio per queste variazioni che luce e clima hanno prodotto su di me. Rimango io narratore al centro della mia stanza, senza muovermi, con le finestre ermeticamente chiuse, ma queste variazioni di luce e di temperatura mi mettono in contatto con il mondo esteriore. E per questi momenti così preziosi, per questi momenti così preziosi avrei dato tutto. La mia vita, dice il narratore, è fatta di abitudini, banali, noiose. La mia vita è come se ci fosse passata sopra la gomma da cancellare. È bellissima questa espressione. La gomma da cancellare. Pensate quante nostre giornate sono fatte in modo che c'è passata sopra la gomma da cancellare, ma bastano proprio pochi minuti, istanti, secondi, in cui è come se la purezza del mondo si svegliasse per noi. Prendiamoci tutti.